Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. La locanda della tormenta presenta Conan, ombre a zambula. Buon ascolto. Uno. Il pericolo si nasconde nella casa di Arambash. L'oratore parlava con voce ansiosa e le dita ricurve delle unghie nere si strinsero come artigli sul braccio muscoloso di Conan mentre gli forniva questo avvertimento con voce gracchiante. Era un uomo rugoso, dalla pelle bruciata dal sole e dalla barba nera stopposa. Le vesti lacere tradivano la sua condizione di nomade. Sembrava più minuto e meschino che mai rispetto al gigante cimmero dalle sopracciglia nere, l'ampio torace e gli arti possenti. Si trovavano in un angolo del bazar dei fabbricanti di spade e accanto a loro, da entrambi i lati, fluiva la moltitudine colorata e poliglotta delle strade di Zambula, esotica, eterogenea, sgargiante e rumorosa. Conan distolse lo sguardo da una ganara dall'atteggiamento sfrontato e dalle labbra vermiglie, la cui gonna dai molti spacchi scopriva le cosce abbronzate ad ogni passo sfrontato, e si rivolse al suo importuno compagno. «Cosa intendi dire con pericolo?» domandò. L'uomo del deserto si guardò furtivamente alle spalle prima di rispondere e abbassò la voce. «Chi lo sa, ma uomini del deserto e viandanti hanno dormito nella casa di Arambash e non si sono più visti e non se n'è più sentito parlare. Che cosa gli è successo? Bach ha giurato che si sono svegliati e se ne sono andati. Ed è vero che nessun abitante della città è mai scomparso dalla propria casa. Eppure nessuno ha più rivisto i viandanti. E alcuni dicono che nei bazar sono stati visti beni ed equipaggiamenti riconosciuti come appartenenti a quelle persone. Se non l'ha venduta Aram, dopo essersi sbarazzato dei suoi proprietari, come ha fatto quella roba ad arrivare là? Io non possiedo nulla. Grugnì il cimmero toccando l'elsa di zigrino della spada che gli pendeva dal fianco. Ho venduto persino il cavallo. Ma quelli che sono spariti di notte dalla casa di Arambash non sempre erano ricchi stranieri. No, erano poveri uomini del deserto che hanno solo dormito là perché la sua tariffa è inferiore a quelle delle altre taverne e non si sono mai più visti. Una volta un capo degli Zuagiri che aveva perso il figlio in questo modo protestò con Jungir Khan, il satrapo, il quale allora ordinò la perquisizione della casa da parte dei soldati. E trovarono una cantina piena di cadaveri? Chiese Conan in tono beffardo. No, non trovarono nulla e allontanarono il capo dalla città minacciandolo e maledicendolo. Ma trovarono qualcos'altro. Al margine del deserto, oltre le case, c'è un gruppo di palme e nel palmeto c'è un pozzo. Dentro quel pozzo sono state trovate ossa umane bruciacchiate e annerite. Non una, ma molte, molte! E questo cosa prova? Grugnì il cimmero. Che Arambash è un demonio! In questa maledetta città, costruita dagli stigiani e governata dagli ircaniani, dove gente bianca, bruna e nera si mescola per generare ibridi di ogni immonda razza e colore, chi può dire quale di loro è umano e quale un demonio mascherato? Arambash è un demonio dall'aspetto umano. Di notte assume il suo vero aspetto e porta i suoi ospiti nel deserto, dove i suoi amici demoni provenienti da luoghi sperduti si riuniscono in assemblea. Perché rapisce sempre gli stranieri? Chiese Conan scettico. La città non permetterebbe di vedere la sua gente uccisa da Bach, ma a loro non importa nulla degli stranieri che finiscono nelle sue mani. Conan, tu vieni dall'Occidente e non conosci i segreti di questa terra antica. Ma fin dai primordi, i demoni del deserto hanno venerato Yogg, il signore delle dimore vuote, con il fuoco, un fuoco che divora le vittime umane. Sei avvisato! Hai dimorato per molte lune nelle tende degli Zuagiri e ormai sei nostro fratello! Non andare nella casa di Arambach! Sparisci! Disse improvvisamente Conan. Sta arrivando una squadra della milizia cittadina. Se ti vedono possono ricordarsi che è stato rubato un cavallo dalla stalla del satrapo. Lo Zuagiro gemette e si mosse convulsamente. Si abbassò tra una bancarella e un abbeveratoio di pietra, indugiando il tempo necessario per dire: «Attento, fratello mio! Ci sono demoni nella casa di Arambach!» Poi si infilò in uno stretto vicolo e scomparve. Conan spostò il cinturone della spada in modo da averla a portata di mano e ricambiò con tranquillità gli sguardi indagatori che la squadra di soldati gli rivolse mentre gli passavano accanto. Lo fissarono con sospetto e curiosità, perché era un uomo che si distingueva anche in mezzo a una cozzaglia di persone come quella che affollava le tortuose strade di Zambula. Gli occhi blu e i tratti forestieri lo differenziavano dalla folla orientale, e la spada portata diritta lungo il fianco accresceva la sua differenza razziale. I miliziani non gli si avvicinarono, ma proseguirono indolenti lungo la strada, mentre la folla si apriva per dargli il passo. Erano tozzi pelishtim, dal naso aquilino e la barba nero-blu, che scendeva fino al petto, protetto dalla cotta di maglia. Erano mercenari assoldati per svolgere un lavoro che i dominatori turaniani consideravano indegno per se stessi, e per questo motivo non erano meno odiati dalla popolazione eterogenea. Conan fissò il sole, che stava giusto cominciando a tramontare dietro le case dal tetto piatto a ovest del bazar, e strattonando ancora una volta il cinturone, si mosse in direzione della taverna di Arambach. Con l'andatura di un uomo delle montagne, avanzava tra i colori cangianti delle strade, dove le tuniche cenciose dei mendicanti lamentosi strusciavano contro i calat bordati di ermellino dei nobili mercanti e il raso ornato di perle delle ricche cortigiane. Superò giganteschi schiavi neri dall'andatura dinoccolata, giocolieri vagabondi dalla barba blu provenienti dalle città scemitiche, nomadi cenciosi dei deserti circostanti, mercanti e avventurieri provenienti da tutte le terre dell'Oriente. La popolazione locale non era meno eterogenea. Qui, secoli addietro, erano giunti gli eserciti della Stigia, dando origine nel deserto orientale a un impero. Allora Zambula non era che una cittadina commerciale, situata in mezzo a una zona circondata da oasi e abitata dai discendenti dei nomadi. Gli stigiani ne fecero una grande città e la occuparono con la loro gente e con schiavi scemiti e cusciti. Le carovane che passavano continuamente percorrendo il deserto da oriente a occidente e viceversa portarono ricchezze e incrementarono la promiscuità razziale. Poi da est, a cavallo, arrivarono i conquistatori turoniani che ricacciarono indietro i confini della Stigia. E ora, da una generazione, Zambula, divenuta l'avamposto occidentale di Turan, era governata da un satrapo turaniano. La Babele, costituita da una miriade di lingue, era un tormento per le orecchie del cimmero, mentre l'incessante movimento lungo le strade di Zambula gli si agitava intorno, interrotto di tanto in tanto da uno squadrone di cavalleggeri dalle armature tintinnanti. Erano gli alti e snelli guerrieri di Turan, dagli scuri volti di falco, dal metallo ticchettante e dalle spade ricurve. La folla sgattaiolava via dagli zoccoli dei cavalli, perché quei cavalieri erano i signori di Zambula. Ma gli stigiani, alti e tetri, arretrando tra le ombre, li fissavano tenebrosamente, ricordando le loro antiche glorie. A quella eterogenea popolazione importava poco se il re che la dominava dimorasse nella scura Kemi o nella scintillante Agrapur. Yungir Khan governava Zambula e gli uomini mormoravano che Nefertari, l'amante del satrapo, governasse su di lui. Ma la gente pensava ai fatti propri, ostentando... Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Con il 40% di sconto su 40 prodotti, la Pasqua alla Coop è più buona per il tuo portafogli e anche per me e il mio coniglietto. Buona Pasqua a tutti! Scopri il negozio e i prodotti in sconto. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 21 aprile. La Coop sei tu. Quando la miriade di colori nelle strade, barattando, discutendo, giocando d'azzardo, tracannando vino, facendo l'amore, come la gente di Zambula aveva sempre fatto, fin da quando le sue torri e i suoi minareti erano sorti dalle sabbie del Karamun. Prima che Conan giungesse alla casa di Aram Baksh, lungo le strade erano state accese lanterne di bronzo, modellate come draghi irridenti. La taverna era l'ultima casa occupata sulla via che conduceva a est. Un ampio giardino circondato da un muro, dove crescevano fitte delle palme da dattero, la separava dalle case più lontane. A ovest della locanda si trovava un altro gruppo di palme, attraverso il quale la strada, ormai abbandonata la città, si inoltrava sinuosamente nel deserto. Al di là della strada, di fronte alla taverna e all'ombra delle palme, sorgeva un gruppo di casupole abbandonate e abitate solamente da sciacalli e pipistrelli. Mentre Conan procedeva lungo la via, si chiese perché i mercanti, così numerosi a Zambula, non avessero occupato quelle case vuote per dormirci. Le luci scomparvero a una certa distanza dietro di lui. In quel punto non c'erano lanterne, eccetto quella che penzolava di fronte all'ingresso della taverna. C'erano solo le stelle, la soffice polvere della strada sotto i suoi piedi, e lo stormire delle foglie di palma nella brezza del deserto. La porta della taverna di Aram non si apriva sulla strada, ma su un viottolo tra la taverna e il giardino con le palme da dattero. Conan tirò con forza la corda che pendeva dalla campana accanto alla lanterna, aggiungendovi il rumore dei colpi dell'elsa della spada contro la porta di legno di teak bordata di ferro. Nella porta si aprì uno sportellino, da cui sbirciò un volto nero. «Apri, maledizione! Sono un ospite! Ho pagato ad Aram una stanza e l'avrò per Crom!» Il nero allungò il collo per osservare la strada illuminata dalle stelle dietro Conan, ma aprì la porta senza parlare e poi la chiuse a chiave sbarrandola dietro il cimmero. Il muro di cinta era insolitamente alto, ma c'erano molti ladri a Zambula, e una casa al limitare del deserto doveva essere difesa dalle incursioni notturne dei nomadi. Conan attraversò il giardino dove grandi fiori pallidi ondeggiavano alla luce delle stelle ed entrò nella mescita, dove un ostigiano con la testa rasata come uno studente sedeva a un tavolo a meditare su misteri sconosciuti e alcuni tizi anonimi giocavano a dadi in un angolo. Aram Baksh venne avanti con passo felpato. Era un uomo corpulento, con una barba nera che gli copriva il petto, un prominente naso aquilino e occhietti neri sempre in movimento. «Desideri cibo? Da bere? Ho mangiato un pezzo di carne e una pagnotta nel souk. Portami un boccale di vino di Ghazan, mi è rimasto giusto abbastanza per pagarlo». Buttò quindi una moneta di rame sulla tavola bagnata di vino. «Non hai vinto al tavolo da gioco? E come avrei potuto, con una sola manciata d'argento con cui cominciare? Ti ho pagato la stanza stamane perché sapevo che probabilmente avrai perso. Volevo essere sicuro di avere un tetto sopra la testa stanotte. Ho notato che nessuno dorme per le strade di Zambula. Perfino i mendicanti vanno a caccia di un buco in cui barricarsi prima che venga buio. La città deve essere piena di una specie di ladri particolarmente sanguinaria». Conan tracannò il vinello con avidità e poi seguì Aram fuori dalla mescita. Dietro di lui i giocatori smisero di giocare per fissarlo con un'espressione stranamente perplessa. Non dissero nulla, ma l'ostigiano rise, una risata spettrale che rifletteva inumano cinismo e derisione. Gli altri abbassarono gli occhi a fatica, ciascuno evitando lo sguardo dell'altro. Le arti studiate da un ostigiano non erano concepite per fargli condividere i sentimenti di un normale essere umano. Conan seguì Aram lungo un corridoio illuminato da lampade di rame e fu colpito nel notare che l'oste camminava silenziosamente. I piedi di Aram erano infilati in morbide babbucce e il corridoio era coperto da spessi tappeti turaniani. Ma attorno allo zambulano aleggiava una sgradevole atmosfera furtiva. Alla fine del corridoio serpeggiante, Aram si fermò di fronte a una porta chiusa da una pesante sbarra di ferro poggiata su robusti sostegni di metallo. La sollevò e mostrò al cimmero una camera dall'aspetto gradevole, in cui Conan notò subito che le finestre erano piccole e solidamente chiuse da sbarre di ferro spiralate e decorate piacevolmente. Sul pavimento erano stesi dei tappeti e l'arredo era costituito da un divano di stile orientale e seggiole ornate. Era una stanza molto più lussuosa di quella che Conan avrebbe potuto permettersi con lo stesso denaro in un posto più vicino alla città. Un fatto che aveva attirato la sua attenzione quella mattina, quando per la prima volta si era reso conto di quanto le gozzoviglie dei giorni precedenti avessero alleggerito la sua borsa. Era arrivato a cavallo a Zambula dal deserto solo la settimana prima. Aram aveva acceso un lume di bronzo e aveva richiamato l'attenzione di Conan sulle due porte. Entrambe erano munite di pesanti paletti. «E stanotte puoi dormire al sicuro, cimmero!» disse Aram sulla soglia, socchiudendo gli occhi con la barba stopposa. Conan grugnì e buttò la spada sguainata sul divano. «I tuoi paletti e le tue sbarre sono robuste, ma io dormo sempre col ferro al fianco!» Aram non rispose. Rimase immobile per un momento, lisciandosi la folta barba, mentre guardava l'arma minacciosa. Poi si ritirò in silenzio, chiudendo la porta dietro di sé. Conan mise a posto il paletto, attraversò la stanza, aprì la porta opposta e guardò fuori. La stanza dava sul lato della casa fiancheggiante la strada che portava a occidente della città. La porta si apriva su un cortiletto cinto da un muro. Le pareti che lo separavano dal resto della taverna erano alte e prive di entrate, ma il muro che fiancheggiava la strada era basso e non c'era serratura alla porta. Conan stette per un momento sull'uscio con il bagliore del lume alle spalle, guardando la strada fin dove svaniva tra le fitte palme. Le foglie frusciavano nella leggera brezza. Dietro si stendeva il deserto desolato. Lontano lungo la strada, in direzione opposta, brillavano le fioche luci e giungevano i rumori attenuati della città. Lì c'era solo la luce delle stelle, il mormorio delle foglie di palma e al di là del basso muro la polvere della strada e le casupole deserte dei tetti piatti che si stagliavano contro le stelle basse. Da qualche parte oltre il palmeto prese a rullare un tamburo. A Conan tornarono in mente i confusi avvertimenti dello Zuagiro. Gli parvero un po' meno irreali di quanto gli era sembrato nella strada affollata e soleggiata. Pensò ancora al mistero di quelle casupole vuote. Perché i mendicanti le evitavano? Rientrò nella stanza, chiuse la porta e mise il paletto. La luce cominciò a tremolare. Conan esaminò il lume e imprecò quando si accorse che l'olio di palma era quasi finito. Cominciò ad urlare per chiamare Aram, ma poi si strinse nelle spalle e spense la luce soffiandoci sopra. Nella dolce oscurità si distese sul divano completamente vestito, mentre con la mano muscolosa cercava istintivamente e impugnava l'elsa della spada. Guardando oziosamente le stelle incorniciate dalla finestra sbarrata, con il mormorio della brezza che gli arrivava alle orecchie attraverso le palme, si addormentò con la vaga consapevolezza del tamburo rimbombante fuori nel deserto. Il rullio sommesso di un tam-tam ricoperto di pelle, suonato dai colpi ritmici e delicati di una mano nera aperta. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Due. Fu il furtivo aprirsi di una porta che destò il cimmero. Non si svegliò come fanno gli uomini civilizzati, in modo lento, allucinato e stupidito. Si destò di colpo, con la mente lucida, distinguendo il suono che gli aveva interrotto il sonno. Restando disteso, teso nell'oscurità, vide lentamente aprirsi la porta che dava all'esterno. Da una fessura che andava allargandosi, vide stagliarsi contro il cielo stellato grandi e larghe spalle ricurve e una testa deforme. Conan fu scosso da un fremito in mezzo alle scapole. Aveva chiuso quella porta in modo sicuro. Come poteva aprirsi ora se non per una forza sovrannaturale? Come poteva un essere umano possedere una testa come quella che si stagliava ora contro le stelle? Tutte le storie che aveva sentito nelle tende degli zuagiri, di demoni e di goblin, tornarono a imperlargli la pelle di sudore appiccicaticcio. Il mostro scivolò silenziosamente nella stanza con un'andatura curva e un odore familiare investì le narici di Conan, ma non lo rassicurò, perché le leggende zuagiri narravano che i demoni avevano quell'odore. Silenziosamente Conan piegò le lunghe gambe. La spada sguainata era nella sua mano destra e quando colpì lo fece all'improvviso e con una furia omicida simile a quella di una tigre che sbuca con un balzo dall'oscurità. Neppure un demone avrebbe potuto evitare quel colpo fatale. La spada si scontrò e affondò attraverso carne e ossa. Poi qualcosa finì pesantemente sul pavimento con un grido strozzato. Conan si chinò nell'oscurità sopra quella cosa con la spada gocciolante in mano. Demone, bestia o uomo che fosse, quell'essere giaceva morto sul pavimento. Il cimmero intuiva la morte come lo facevano le creature selvagge. Guardò attraverso la porta semiaperta nel cortile illuminato dalle stelle. La porta esterna era aperta, ma il cortile era vuoto. Conan chiuse la porta, ma non mise il paletto. Brancolando nell'oscurità, trovò il lume e lo accese. C'era abbastanza olio dentro da fare luce per circa un minuto. Un attimo dopo, era curvo sopra la figura che giaceva a terra in una pozza di sangue. Era un nero gigantesco, nudo, eccettuato una pezza attorno ai fianchi. In una mano stringeva ancora una mazza dall'estremità bitorzoluta. I capelli lalunginosi dell'uomo erano impastati con fango e ramoscelli e formavano delle specie di corna ritorte. Era quell'acconciatura barbarica che aveva fornito alla testa l'aspetto deforme intravisto alla luce delle stelle. Trovata la soluzione del mistero, Conan sollevò le spesse labbra rosse del nero e grugnì quando vide i denti limati fino a farli diventare appuntiti. A quel punto comprese l'enigma degli stranieri scomparsi dalla casa di Aram Baksh, il mistero del tamburo nero battuto al di là del palmeto e del pozzo con le ossa bruciacchiate, quel pozzo dove carne insolita poteva essere arrostita sotto le stelle e dove bestie nere si rintanavano per saziare una fame orribile. L'uomo sul pavimento era uno schiavo cannibale di Darfar. In città ve n'erano molti di quella genia. Il cannibalismo non era apertamente tollerato a Zambula, ma Conan a quel punto seppe perché la gente si richiudeva in casa di notte e perché perfino i mendicanti evitavano i vicoli all'aperto e le rovine prive di porte. Fece una smorfia di disgusto mentre si immaginava brutali ombre nere in agguato di notte lungo le strade alla ricerca di prede umane e uomini come Aram Baksh che aprivano loro le porte. Il taverniere non era un demone, era qualcosa di peggio. Gli schiavi di Darfar erano noti ladri. Senza dubbio parte dei loro bottini finiva nelle mani di Aram Baksh, e lui in cambio vendeva loro carne umana. Conan spense il lume, camminò fino alla porta e l'aprì facendo scorrere la mano sulle decorazioni del lato esterno. Una di queste era mobile e azionava il paletto interno. La stanza era una trappola per catturare prede umane come conigli. Ma questa volta, invece di un coniglio, aveva preso una tigre dai denti a sciabola. Conan tornò all'altra porta, alzò il paletto e lo spinse. Era impossibile muoverlo e si ricordò del paletto dell'altra porta. Aram non voleva avere a che fare con le sue vittime e neanche con gli uomini con cui trattava. Fermando il cinturone, il cimmero uscì nel cortile, chiudendo la porta dietro di sé. Non aveva intenzione di rimandare la sua dimostrazione di riconoscenza ad Aram Baksh. Si domandò quanti poveri diavoli fossero stati tramortiti nel sonno, poi trascinati fuori dalla stanza e lungo la strada che attraversava i palmeti verso il pozzo per essere arrostiti. Si fermò nel cortile. Il tamburo stava ancora rullando e Conan colse il riflesso di un rosso guizzo luminescente attraverso il pavimento. Il cannibalismo era più di un appetito perverso per gli uomini neri di Darfar. Era un elemento integrante del loro orrendo culto. Gli avvoltoi neri erano già riuniti, ma qualunque carne avesse riempito le loro pance quella notte non sarebbe stata la sua. Per raggiungere Aram Baksh doveva scalare uno dei muri che separavano il piccolo recinto del complesso principale. Erano alti, fatti per tenere lontani i cannibali, ma Conan non era un nero originario delle paludi. Da ragazzo i suoi muscoli erano diventati d'acciaio sulle ripide pareti delle sue colline natie. Si trovava ai piedi del muro più vicino, quando sotto le palme echeggiò un grido. In un attimo Conan si accucciò accanto alla porta fissando la strada. Il suono era giunto dalle ombre tra le casupole al di là della strada. Udì un gemito disperato e gorgogliante, come quello che poteva venire da una vittima che tentava disperatamente di gridare con una mano nera premuta sulla bocca. Un drappello compatto di figure emerse dalle ombre oltre le casupole e imboccò la strada. Tre enormi uomini neri stavano trascinando un'esile figura che si dibatteva fra loro. Conan intravide un guizzo di membra e burne che si contorceva alla luce delle stelle. Dopo un convulso di vincolarsi, il prigioniero sfuggì alla presa di quelle mani brutali e corse via lungo la strada. Si trattava di una giovane donna snella, nuda come il giorno in cui era nata. Conan la vide chiaramente prima che abbandonasse la strada e si infilasse tra le ombre delle casupole. I neri la incalzavano e nelle tenebre le figure si confusero nuovamente. Poco dopo risuonò insopportabile un grido di angoscia e di orrore. Furibondo per la mostruosità della vicenda, Conan attraversò di corsa la strada. Né la vittima né i rapitori si resero conto della sua presenza fino a quando il leggero fruscio della polvere calpestata non li avvertì. Ma allora Conan era già su di loro con la furia rovinosa di un vento di collina. Due dei neri si voltarono per affrontarlo sollevando le mazze, ma non riuscirono a stimare bene la velocità con cui il cimmero si stava avvicinando. Uno venne abbattuto, sventrato. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Prima che potesse colpire. Poi Conan, roteando come un gatto, evitò il colpo di clava dell'altro e sferrò un colpo sibilante. La testa del nero volò in aria. Il corpo acefalo fece tre passi traballanti sprizzando sangue e artigliando orribilmente l'aria con le mani annaspanti. Poi cadde nella polvere. L'ultimo cannibale arretrò emettendo un urlo strozzato e allontanò la prigioniera con uno spintone. Questa inciampò e rotolò nella polvere e il nero fuggì in preda al panico verso la città. Conan lo inseguì. La paura aveva messo le ali ai piedi al nero, ma prima di aver raggiunto la casupola più a est, sentì la morte alle spalle e muggì come un bue al macello. «Nero cane dell'inferno!» Conan affondò la spada in mezzo alle spalle brune, con una tale furia vendicativa che la larga lama fuoriuscì per metà della sua lunghezza dal torace scuro. Con un grido soffocato il nero incespicò e cadde in avanti. Conan puntò i piedi ed estrasse la spada mentre la sua vittima cadeva. Solo la brezza agitava adesso le foglie. Conan scosse la testa come un leone agitava la sua criniera e ringhiò la sua brama di sangue soddisfatta. Però nessun'altra figura sbucò dalle ombre e davanti alle casupole. La strada illuminata dalle stelle si allungava vuota. Il cimmero si voltò nell'udire un rapido battito di piedi dietro di sé, ma si trattava solo della ragazza che stava arrivando di corsa per gettarglisi tra le braccia e abbracciarlo in una stretta disperata, sconvolta per il terrore dell'orribile destino a cui era appena sfuggita. «Tranquilla ragazza, va tutto bene. Come hanno fatto a prenderti?» La giovane singhiozzò qualcosa di incomprensibile. Conan dimenticò tutto ciò che riguardava Rambaksh mentre la osservava alla luce delle stelle. Era di pelle bianca, sebbene abbastanza scura, evidentemente una rappresentante delle molte razze miste di Zambula. Conan si trovava in una buona posizione per osservarla e vide che era alta, slanciata e snella. I suoi fieri occhi si infiammarono di ammirazione quando osservò lo splendido petto, le braccia e le gambe flessuose della giovane che ancora tremavano per la paura e la fatica. Le passò un braccio attorno alla vita snella e disse con fare rassicurante: «Non devi più tremare, ragazza. Sei al sicuro ora». Il tocco del cimmero sembrò restituire alla giovane la calma. Gettò all'indietro i folti ricci lucidi e lanciò un'occhiata timorosa dietro le spalle mentre si stringeva ancora di più al suo salvatore come se cercasse sicurezza nel suo tocco. «Mi hanno catturata per la strada. Erano in agguato sotto un arco buio. Uomini neri, simili a grandi scimmioni. Che Set abbia pietà di me. Li sognerò per un bel pezzo». «Cosa ci facevi per la strada quest'ora di notte?» le chiese lui, affascinato dal morbido contatto della pelle liscia sotto le sue dita indagatrici. La ragazza si tirò indietro i capelli e lo fissò inespressiva in viso. Non sembrava rendersi conto delle carezze del cimmero. «Il mio amante. È stato il mio amante che mi ha costretta a fuggire per la strada. È impazzito e ha cercato di uccidermi. E mentre fuggivo da lui che sono stata presa da quelle bestie». «Una bellezza come la tua può far impazzire un uomo», sentenziò Conan facendo scorrere con curiosità le sue dita nei riccioli lucidi. La ragazza scosse il capo come se si riprendesse da uno stordimento. Non tremava più e la sua voce ne era la conferma. «È stata la vendetta di un sacerdote, Totrasmek, il gran sacerdote di Hanuman, che mi desiderava per sé. Quel porco!» «Non è necessario maledirlo per quello. La vecchia iena ha un gusto migliore di quanto pensassi». Lei ignorò quel complimento ironico. Si stava riprendendo molto in fretta. «Il mio uomo è un giovane soldato turaniano. Per vendicarsi di me, Totrasmek lo ha drogato e l'ha fatto impazzire. Stanotte ha preso una spada ed è venuto a uccidermi in preda alla follia. Però sono riuscita a sfuggirgli scappando in strada. Cos'è stato?» Conan si era già mosso. Silenzioso come un'ombra, l'aveva portata dietro la prima capanna. Rimasero immobili sotto le palme sparse in un silenzio carico di tensione, mentre i borbottii sommessi che entrambi avevano udito erano diventati più forti, fino a divenire voci distinguibili. Un gruppo di neri, circa 9 o 10, si stava avvicinando lungo la strada, provenendo dalla città. La ragazza afferrò il braccio di Conan e lui avvertì il tremore terrorizzato del suo corpo flessuoso. Ora potevano comprendere le voci gutturali degli uomini neri. «I nostri fratelli si sono già radunati al pozzo. Non abbiamo avuto affatto fortuna. Spero che loro ne abbiano avuto abbastanza anche per noi. Aram ci ha promesso un uomo. Aram mantiene sempre la parola data. Abbiamo catturato molti uomini nella sua caverna, ma lo paghiamo bene. Io stesso gli ho dato 10 balle di seta che ho rubato al mio padrone. Era seta ottima per Set». I neri passarono oltre con i piedi piatti nudi che sollevavano polvere e le loro voci si allontanarono lungo la strada. «Meglio per noi che quei cadaveri siano dietro le capanne. Se guardano nella stanza della morte di Aram, ne troveranno un altro. Andiamocene!» «Sì, sbrighiamoci! Il mio amore sta vagando chissà dove per le strade da solo!» «È un'usanza diabolica!» ringhiò Conan mentre procedeva verso la città, avanzando parallelamente alla strada, ma mantenendosi dietro le casupole e i radi alberi. «Perché gli abitanti di Zambula non fanno piazza pulita di questi cani neri?» «Sono schiavi preziosi. Ce ne sono così tanti che potrebbero rivoltarsi se si negasse la carne che preferiscono. La gente di Zambula sa che infestano le strade di notte e tutti si preoccupano di rimanere in casa con le porte ben chiuse a chiave a meno che non succeda qualcosa di imprevisto, come è capitato a me. Catturano tutto ciò che incontrano, ma raramente prendono qualcuno che non è straniero. La gente di Zambula non si cura degli stranieri che passano per la città. Uomini come Aram Vax non oserebbero fare altrettanto con un cittadino». Conan sputò disgustato e un momento dopo portò la sua compagna sulla strada che stava diventando un viale con case non illuminate su entrambi i lati. Sgusciare tra le ombre non era congeniale alla natura del cimmero. «Dove vuoi andare?» Conan chiese alla ragazza, che non sembrava disapprovare il braccio di Conan attorno alla vita. «A casa mia, per svegliare i miei servi. Perché cerchino il mio amante. Non voglio che la città, i sacerdoti, chiunque, vengano a sapere della sua pazzia. È un giovane ufficiale con un promettente futuro. Forse possiamo liberarlo dalla follia se lo troviamo». «Se lo troviamo? Cosa ti fa pensare che io abbia intenzione di passare la notte in giro per le strade a caccia di un folle?» La ragazza si gettò un rapido sguardo in viso e interpretò correttamente. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. La mente lo scintillio negli occhi azzurri di Conan. Qualunque donna avrebbe capito che sarebbe stata seguita ovunque, almeno per un po'. Però, come donna, dissimulò questa sua consapevolezza. «Ti prego, non ho nessun altro a cui rivolgermi per aiuto. Sei stato buono». «Va bene, va bene. Qual è il nome del giovane impazzito?» «Beh, Alafdal. Io sono Zabibi, una danzatrice. Ho ballato spesso dinanzi a Jungir Khan, il satrapo, e alla sua amante, Nefertari, e a tutti i nobili di Zambula. Totrasmek mi desiderava e, poiché lo respingevo, ha fatto di me, innocente, lo strumento della sua vendetta contro Alafdal. Chiesi al sacerdote un filtro d'amore senza sospettare la perversione della sua malvagità e del suo odio. Mi diede una droga da mescolare al vino del mio amante e giurò che una volta bevuta Alafdal mi avrebbe amato più follemente che mai e avrebbe soddisfatto ogni mio desiderio. Mescolai di nascosto la droga al vino del mio amore, ma dopo che l'ebbe bevuta divenne pazzo furioso e allora mi è successo ciò che ti ho raccontato. Maledetto Totrasmek! Serpente bastardo! Ah! Afferrò convulsamente il braccio di Conan ed entrambi si fermarono bruscamente. Erano arrivati in un quartiere di negozi e di stalle, deserto e buio per via dell'ora tarda. Stavano attraversando un vicolo e al suo sbocco era seduto immobile un uomo silenzioso. Aveva la testa china, ma Conan notò una strana luce in quegli occhi misteriosi che li fissavano senza battere ciglio. Il cimmero rabbrividì, ma non per la paura alla vista della spada stretta nella mano dell'uomo, bensì a causa della strana impressione che suggerivano quella postura e quel silenzio. Erano chiari segni di follia. Conan scostò la ragazza e sguainò la spada. «Non ucciderlo! In nome di Seth! Non ucciderlo! Sei abbastanza forte! Immobilizzalo!» «Vedremo!» borbottò Conan, stringendo la spada con la destra e serrando la sinistra in un pugno simile a un maglio. Si avvicinò cautamente all'uscita del vicolo. Ma con una orribile risata di follia, il turaniano caricò. Quando si incontrarono, Conan sferrò un colpo con la spada, alzandosi sulle punte dei piedi, mettendo tutta la potenza del suo corpo nel colpo. Le scintille lampeggiarono azzurre quando Conan parò la lama avversaria e l'istante successivo il pazzo giaceva svenuto nella polvere in seguito al colpo possente del pugno sinistro di Conan. La ragazza corse avanti. «Oh, non è mica... non è...» Conan si chinò rapidamente, voltò l'uomo da un lato e le sue dita assaggiarono rapidamente il corpo. «Non si è fatto molto male. Perde sangue dal naso, ma chiunque lo farebbe dopo un colpetto alla mascella. Si riavrà tra breve e forse la sua mente sarà a posto. Nel frattempo gli legherò i polsi con il cinturone della spada. Ecco, così. Adesso dove vuoi che lo porti?» «Aspetta!» La ragazza si inginocchiò accanto alla figura svenuta, gli strinse le mani legate e lo controllò con attenzione. Poi, scuotendo il capo come se fosse sorpresa e delusa, si alzò. Si avvicinò al gigante cimmero e poggiò le sue mani affusolate sul petto possente del barbaro. Gli occhi scuri di lei, simili a umidi gioielli neri alla luce delle stelle, si fissarono sui suoi. «Tu sì che sei un uomo! Aiutami! Totrasmek deve morire! Uccidilo per me!» «E dovrei infilare il collo in una forca turaniana?» grugnì Conan. «No!» Le braccia snelle, forti come acciaio duttile, circondarono il collo nerboruto del cimmero. Il morbido corpo di Zabibi premette contro quello di Conan. «Gli irachiani non amano Totrasmek. I sacerdoti di Seth lo temono. È un mostro che domina gli uomini grazie alla paura e alla superstizione. Io venero Seth e i turaniani si inchinano di fronte a Erlik. Ma Totrasmek offre sacrifici ad Anuman, il maledetto. I nobili turaniani temono la sua magia e il potere che esercita sui meticci e lo odiano. Perfino Djungir Khan e la sua compagna Nefertari lo temono e lo odiano. Se venisse ucciso nel suo tempio di notte, non si getterebbero all'inseguimento dell'assassino.» «E cosa mi dici delle sue magie?» bofonchiò il cimmero. «Sei un guerriero. Rischiare la vita fa parte del tuo mestiere.» «Per un prezzo.» «Ci sarà un prezzo.» gli sussurrò lei, sollevandosi sulla punta dei piedi per fissarlo negli occhi. La vicinanza di quel corpo caldo infiammò il sangue nelle vene di Conan e il profumo dell'alito della ragazza gli arrivò al cervello. Ma quando Conan la strinse tra le braccia, il suo corpo sinuoso si divincolò con un agile movimento e Zabibi disse: «Aspetta, prima aiutami in questa faccenda.» «Fai la tua offerta.» Conan parlò con una certa difficoltà. «Raccogli il mio amante», gli ordinò lei, e il cimmero si chinò e si mise in spalla con facilità l'alta figura. In quel momento si sentì come se fosse stato in grado di abbattere il palazzo di Djungir Khan con la stessa facilità. La ragazza mormorò alcune parole affettuose all'uomo svenuto, e non c'era ipocrisia nel suo atteggiamento. Lei amava sinceramente Alafdal. Qualunque accordo d'affari lei avesse stretto con Conan non avrebbe avuto alcuna conseguenza sulla sua relazione con il giovane ufficiale. Le donne sono molto più pragmatiche su questi argomenti rispetto agli uomini. Seguimi. Detto questo, si affrettò lungo la via, mentre il cimero avanzava con scioltezza dietro di lei, per nulla ostacolato dal peso morto che trasportava. Mantenne un occhio vigile, alla ricerca di ombre nere acquattate sotto le arcate, ma non vide nulla di sospetto. Senza dubbio, gli uomini di Darfar erano tutti riuniti attorno al pozzo. La ragazza svoltò quindi in una stretta strada secondaria e poi bussò con prudenza a una porta sotto alcuni archi. Quasi subito nel pannello superiore si aprì uno sportellino e si affacciò un viso nero. Zabibi si avvicinò all'apertura bisbigliando piano. I paletti della porta scricchiolarono nei loro alloggiamenti e l'uscio si aprì. Un nero gigantesco si stagliò contro il debole bagliore di una lampada di rame. Con una rapida occhiata, Conan si rese conto che l'uomo non era di Darfar. I suoi denti non erano limati e i capelli lanosi erano tagliati corti. Proveniva dal Wadai. A un ordine di Zabibi, Conan passò il corpo svenuto sulle braccia del nero e vide che il giovane ufficiale veniva fatto distendere su un divano di velluto. Non mostrava segno di volersi riprendere. Il colpo che lo aveva fatto svenire avrebbe potuto abbattere un bue. Zabibi si chinò sull'uomo per un istante e le sue dita si intrecciarono nervosamente. Poi si alzò e indicò al cimmero di seguirla. La porta si richiuse senza rumore. I chiavistelli scattarono dietro di loro e lo sportellino che si chiudeva fece svanire il bagliore del lume. Alla luce delle stelle, nella strada, Zabibi prese la mano di Conan. Quella della ragazza tremava un poco. «Non mi abbandonerai?» Lui scosse il capo dalla folta capigliatura, massiccio contro le stelle. «Allora seguimi fino al tempio di Hanuman e che gli dèi abbiano pietà delle nostre anime!» Si aggiravano tra le vie silenziose come fantasmi dei tempi passati. Avanzavano in silenzio. Forse la ragazza stava pensando al suo amante disteso svenuto sul divano sotto i lumi di rame, oppure stava rabbrividendo per la paura di ciò che potevano trovarsi davanti nel tempio infestato dai demoni di Hanuman. Il barbaro stava pensando solamente alla donna che si muoveva così flessuosamente accanto a lui. Il profumo dei suoi capelli aulenti gli fluiva nelle narici, l'aura sensuale della sua presenza gli riempiva la mente e non lasciava spazio ad alcun altro pensiero. Avanzando, una volta udirono il tintinnio di piedi dalla suola di ottone e si ritrassero tra le ombre di un arco buio mentre una pattuglia di Pelishtim li superava. Erano in 15, marciavano in formazione compatta con le picche pronte. Gli uomini della retroguardia con i loro ampi scudi di bronzo appesi sulla schiena per proteggersi da una coltellata vibrata alle spalle. La furtiva minaccia dei cannibali neri costituiva un pericolo anche per uomini armati. Non appena il clangore dei loro sandali svanì lungo la strada, Conan e la ragazza emersero dal loro nascondiglio e si avviarono in fretta. Pochi momenti dopo videro il tozzo edificio dal tetto piatto che cercavano stagliarsi lugubre davanti a loro. Il tempio di Hanuman sorgeva isolato al centro di un'ampia piazza, a quell'ora silenziosa e deserta sotto le stelle. Un muro di marmo con un'ampia apertura direttamente di fronte al portico circondava il tempio. Questa apertura non aveva cancelli né barriere di sorta. «Perché i neri non cercano là le loro prede? Non c'è nulla che impedisca loro di entrare nel tempio!» Conan percepì il tremore del corpo di Zabibi quando questo premette contro il suo. «Essi temono Totrasmek, così come tutti a Zambula. Persino Djungir-Khan e Nefertari lo temono. Vieni, In fretta, prima che il coraggio mi sfugga come acqua fresca. La paura della ragazza era evidente, ma lei non indietreggiò. Conan sguainò la spada e avanzò davanti a Zabibi mentre attraversarono l'arcata aperta. Conosceva le pericolose abitudini dei sacerdoti dell'Oriente ed era conscio che un profanatore del tempio di Hanuman poteva aspettarsi di incontrare quasi ogni sorta di incubo orribile. Sapeva che esisteva una buona possibilità che né lui né la ragazza lasciassero vivi il tempio, ma aveva rischiato la sua vita così tante volte prima di allora da non dedicare a quel pensiero troppa attenzione. Entrarono in un cortile dal pavimento di marmo che luccicava biancastro alla luce delle stelle. Una breve rampa di ampi scalini di marmo conduceva al portico a colonne. Le grandi porte di bronzo erano spalancate, come lo erano da secoli. Però, all'interno, nessun adoratore vi bruciava incenso. Di giorno, uomini e donne potevano entrare timidamente nel tempio e lasciare offerte al dio Scimmia sull'altare nero. Di notte, la gente evitava il tempio di Hanuman, come le lepri evitano la tana del serpente. Incensieri accesi illuminavano l'interno con un morbido e strano bagliore che creava un'illusione di irrealtà. Vicino alla parete posteriore, dietro l'altare di pietra nera, sedeva il dio con lo sguardo eternamente rivolto verso la porta aperta, attraverso la quale per secoli erano giunte le sue vittime trascinate da catene di rose. Una lieve scanalatura correva dalla soglia all'altare, e quando i piedi di Conan la percepirono, il cimmero si allontanò rapidamente da lì, come se avesse calpestato un serpente. Quel solco era stato creato dai piedi della moltitudine di coloro che erano morti urlando su quel tetro altare. Bestiale nella luce incerta, Hanuman ghignava con la sua maschera scolpita. Sedeva non come avrebbe fatto uno scimmione, bensì a gambe incrociate come un uomo, ma il suo aspetto non era per questo meno scimmiesco. L'effigie era scolpita nel marmo nero, ma i suoi occhi erano rubini che ardevano rossi e malvagi, come i tizzoni della fossa più profonda dell'inferno. Le sue mani enormi erano poggiate in grembo, le palme rivolte verso l'alto, le dita artigliate aperte e voraci. Nella grossolana enfatizzazione dei suoi attributi, nella parodia del suo aspetto da satiro, era riflesso l'abominevole cinismo del culto degenerato che lo deificava. La ragazza si mosse attorno all'immagine dirigendosi verso la parete posteriore e quando il suo fianco snello strusciò contro un ginocchio scolpito si ritrasse e rabbrividì come se l'avesse toccata un rettile. C'era uno spazio di diversi piedi tra l'ampia schiena dell'idolo e la parete di marmo con la sua decorazione di foglie dorate. Su ciascun lato, di fianco all'idolo, era incassata una porta d'avorio sotto un arco d'oro. «Queste porte si aprono ciascuna all'estremità di un corridoio a forma di forcina», disse Zabibi affrettatamente. «Una volta entrai all'interno del tempio, una volta sola». Rabbrividì e scosse le spalle minute di fronte a quel ricordo al contempo terrorizzante e osceno. «Il corridoio si piega come un ferro di cavallo e ciascuna estremità finisce in una stanza». Le camere di Totrasmek sono all'interno della curva del corridoio e si aprono su di esso. Però c'è una porta segreta su questa parete che dà direttamente in una stanza interna. Iniziò a far scorrere le mani lungo la liscia superficie, dove non compariva alcuna crepa o fessura. Conan rimase al suo fianco, la spada in mano, scrutando attentamente attorno. Il silenzio, il vuoto del tempio, con l'immaginazione che dava origine a ciò che poteva celarsi dietro quella parete, lo facevano sentire come un animale selvaggio che ha fiutato una trappola. Ah! La ragazza aveva finalmente trovato una molla nascosta. Un'apertura quadrata si spalancò nera nella parete. Poi Zabibi gridò, e mentre Conan balzava verso di lei, vide che una enorme mano nera si era stretta attorno ai capelli della giovane. La ragazza venne sollevata dal pavimento e tirata a capofitto verso l'apertura. Conan cercò di afferrarla, ma inutilmente, e sentì le dita scivolare lungo un arto nudo. L'istante successivo, Zabibi era svanita e la parete era ritornata liscia come prima. Da dietro di essa però giunse brevemente il suono ovattato di una lotta, un grido appena udibile e una bassa risata che fece gelare il sangue nelle vene di Conan. Tre. Con un'imprecazione, il cimero percosse la parete con un terrificante colpo del pomolo della spada e il marmo si fessurò e si scheggiò. Però la porta segreta non cedette e la ragione gli disse che senza dubbio doveva essere stata sprangata dall'altra parte della parete. Girandosi, Conan con un balzo attraversò la stanza e si diresse verso una delle porte d'avorio. Sollevò la spada per infrangere i pannelli, ma per scrupolo controllò prima la porta con la mano sinistra. Questa si aprì facilmente e il cimero fissò un lungo corridoio che si curvava sfocandosi nella semioscurità di una luce bizzarra emanata da incensieri simili a quelli del tempio. Un pesante chiavistello d'oro si trovava sullo stipite della porta e Conan lo toccò lievemente con la punta delle dita. Il debole tepore del metallo sarebbe stato individuato solamente da un uomo le cui percezioni fossero state simili a quelle di un lupo. Il chiavistello era stato toccato e pertanto tirato pochi secondi prima. La faccenda stava assumendo sempre più l'aspetto di una trappola con l'esca. Avrebbe dovuto immaginare che Totrasmek avrebbe saputo quando qualcuno si fosse introdotto nel tempio. Entrare nel corridoio avrebbe senza dubbio significato cadere in qualunque trappola il sacerdote gli avesse teso. Però Conan non esitò. Da qualche parte, in quell'interno fiocamente illuminato, Zabibi era prigioniera e da ciò che sapeva sui sacerdoti di Hanuman era certo che lei aveva disperatamente bisogno d'aiuto. Conan si avviò lungo il corridoio con il passo furtivo della pantera, pronto a colpire a destra o a sinistra. Alla sua sinistra si aprivano porte d'avorio sormontate da archi e lui le provò tutte. Erano chiuse. Aveva percorso circa 75 passi quando il corridoio piegò bruscamente sulla sinistra, descrivendo la curva che la ragazza aveva menzionato. Su quella curva si apriva una porta che cedette sotto la sua mano. Fece capolino in un'ampia stanza quadrata, poco più illuminata del corridoio. Le pareti erano di marmo bianco, il pavimento d'avorio, il soffitto d'argento cesellato. Vide divani di raso prezioso, sgabelli d'avorio con intarsi in oro, un tavolo rotondo fatto di qualche sostanza massiccia simile al metallo. Su uno dei divani era disteso un uomo che fissava la porta. Rise quando incontrò lo sguardo stupito del cimmero. L'uomo era nudo, eccetto un perizoma e dei sandali alti. Aveva la pelle marrone, corti capelli neri e vivacissimi occhi neri inquadrati in un viso ampio e arrogante. Era imponente, con arti enormi sui quali grandi muscoli guizzavano ad ogni minimo movimento. Le mani erano le più grandi che Conan avesse mai visto. La sicurezza della gigantesca forza fisica pervadeva ogni accento e azione dell'uomo. «Perché non entri, barbaro?» disse in tono di scherno a Conan, con un esagerato gesto d'invito. Gli occhi del cimmero iniziarono ad ardere minacciosi, ma entrò cautamente nella stanza con la spada pronta. «Chi diavolo sei?» ringhiò Conan. «Mi chiamo Balteor. Una volta, molti anni fa, in un'altra terra, avevo un altro nome. Però questo è un bel nome. E perché Totrasmek me lo diede, qualunque servetta del tempio può dirtelo. Così sei il suo cagnolino. Beh, Maledici la tua pellaccia scura, Balpteor! Dov'è la ragazza che hai preso dal passaggio nella parete? Ah, sta intrattenendo il mio signore! Ascolta! Da dietro una porta opposta a quella da cui era entrato Conan, risuonò il grido di una donna, debole e attenuato dalla distanza. All'inferno la tua anima! Conan mosse un passo verso la porta, poi si girò con la pelle accapponata. Balpteor stava ridendo di lui e quella risata aveva un accenno di minaccia che fece rizzare i peli sul collo di Conan e fece fluire una rossa onda di furia omicida nei suoi occhi. Si mosse verso Balpteor, la mano stretta attorno all'elsa. Con un rapido movimento, l'uomo scuro gli gettò contro qualcosa, una sfera scintillante che luccicava nella luce bizzarra. Conan la schivò distinto, ma miracolosamente il globo si fermò a mezz'aria, a pochi passi dal suo viso. Non cadde sul pavimento. Rimase sospeso, come fosse trattenuto da fili invisibili a circa 5 piedi da terra. E mentre Conan lo fissava stupito, iniziò a ruotare con crescente velocità. Ruotando, cresceva, si espandeva e diventava nebuloso. Riempì la stanza, avviluppò Conan e nascose i mobili, le pareti e il viso sorridente di Balpteor. Conan era perso nel mezzo di un accecante turbinio bluastro che ruotava a velocità impressionante. Venti terribili superarono urlando il cimmero, percuotendolo, cercando di abbatterlo, di trascinarlo nel vortice che roteava follemente davanti a lui. Con un grido strozzato, Conan si lanciò all'indietro, barcollò, poi sentì il muro solido contro la schiena. A quel contatto l'illusione svanì. La titanica sfera turbinante sparì come una bolla di sapone. Conan si alzò nella stanza dal soffitto d'argento con una foschia grigia avviluppata attorno ai piedi e vide Balpteor cullarsi sul divano scosso da una risata silenziosa. «Figlio di puttana!» Conan gli si avventò contro. Però la foschia si alzò turbinante dal pavimento nascondendo l'enorme figura scura. Procedendo a tentoni in una nube roteante che lo accecava, Conan provò una lacerante sensazione di dislocazione e poi stanza, nebbia e uomo scuro svanirono tutti. Si ritrovò da solo in mezzo alle alte canne di una palude mentre un bufalo lo stava caricando a testa bassa. Conan balzò di lato evitando le affilate corna curve come scimitarre e spinse la sua spada dietro la zampa anteriore attraversando costole e cuore. E in quel momento non fu un bufalo a morire nel fango, ma l'oscuro Balpteor. Con un'imprecazione Conan gli mozzò la testa. Questa si alzò dal terreno e richiuse zanne bestiali attorno alla sua gola. Nonostante tutta la sua forza, Conan non riusciva a liberarsi, stava soffocando. Poi lo spazio venne percorso da un fremito e da un ruggito, dallo shock stordente di un impatto incommensurabile. E Conan si ritrovò nella stanza insieme a Balpteor, la cui testa era di nuovo saldamente fissata sulle sue spalle e che rideva silenziosamente di lui dal divano. «Ipnotismo!» mormorò Conan accucciandosi e puntando saldamente le dita dei piedi sul marmo. I suoi occhi baluginavano. Quel cane scuro stava giocando con lui, lo stava prendendo in giro. Però quella pantomima, quel giochino con la nebbia e le ombre del pensiero non potevano ferirlo. Non doveva far altro che balzare e colpire e l'oscuro accolito non sarebbe stato altro che un cadavere mutilato sotto i suoi piedi. Questa volta non si sarebbe fatto ingannare da ombre illusorie. Ma così non fu. Un ringhio agghiacciante risuonò alle sue spalle e Conan si voltò colpendo con una velocità impressionante la pantera accucciata pronto a balzargli addosso dal tavolo dal colore del metallo. Quando colpì l'apparizione, questa scomparve e la sua lama si abbatté sonoramente contro la superficie dura come il diamante. Istantaneamente Conan percepì qualcosa di anormale. La lama era rimasta bloccata sul tavolo. cercò di liberarla con furia selvaggia, ma quella non cedette. Questo non era un trucco ipnotico. Il tavolo era un gigantesco magnete. Aveva afferrato l'Elsa con entrambe le mani, quando una voce alle sue spalle lo fece girare. Conan si trovò a fronteggiare l'uomo scuro che finalmente si era alzato dal divano. Leggermente più alto del cimmero e molto più pesante, Balptheor torreggiava su di lui, un'impressionante immagine di sviluppo muscolare. Le sue braccia imponenti erano innaturalmente lunghe e le grandi mani aperte si aprivano e chiudevano, vibrando convulsamente. Conan lasciò la presa sull'Elsa della spada imprigionata e rimase in silenzio, osservando il suo nemico attraverso le palpebre ridotte ad una fessura. La tua testa, cimmero! Te la strapperò a mani nude, torcendola dalle spalle, così come si fa con quella di un pollo! Così i figli di Kosala offrono i sacrifici a Yayur! Barbaro, ti trovi di fronte a uno strangolatore di Yotapong! Io venni scelto dai sacerdoti di Yayur quando ero in fasce, e per tutta la mia infanzia, giovinezza e adolescenza venni addestrato nell'arte di uccidere a mani nude, perché solo in questo modo si compiono i sacrifici. Yayur ama il sangue, e noi non ne sprechiamo una goccia delle nostre vittime. Quando ero bambino mi diedero neonati con cui allenarmi, da ragazzo strangolai giovani donne, da adolescente donne, vecchi e ragazzi, fino a quando non raggiunsi la piena maturità come uomo e non mi venne dato un adulto robusto da uccidere sull'altare di Yotapong. Per anni offrii sacrifici a Yayur. Con queste dita ho spezzato centinaia di colli. Perché io fuggii da Yotapong per diventare il servitore di Totrasmek non ti deve interessare. Tra un momento avrai superato la curiosità. I sacerdoti di Kosala, gli strangolatori di Yayur, sono forti oltre l'immaginazione umana. E io ero più forte di qualunque altro. Con le mie mani, barbaro, ti spezzerò il collo! E come l'attacco di due cobra, le grandi mani si serrarono attorno alla gola di Conan. Il cimmero non fece alcun tentativo di scansarle o di deviarle, ma le sue mani sfrecciarono contro il collo taurino del Kosalano. Gli occhi neri di Balptheor si allargarono quando sentì lo spesso fascio di muscoli che proteggevano la gola del barbaro. Con un ringhio esercitò la sua forza inumana e i fasci di muscoli e di tendini si gonfiarono lungo le braccia massicce. Poi dalle sue labbra eruppe un gemito strozzato quando le dita di Conan si serrarono sulla sua gola. Per un istante entrambi rimasero immobili come statue, i volti simili a maschere per lo sforzo, le vene che incominciavano a risaltare purpuree sulle tempie. Le sottili labbra di Conan scoprirono i denti, evidenziando un ringhio feroce. Gli occhi di Balptheor erano spalancati. In essi stava crescendo una terribile sorpresa e il lampo della paura. Entrambi gli uomini rimasero immobili come statue, tranne che per il gonfiarsi dei muscoli sulle braccia rigide e le gambe puntate sul pavimento. Ma in quel momento si stavano dando battaglia forse oltre la normale concezione umana. Forze che avrebbero potuto sradicare alberi e fracassare crani di torelli. Uno sbuffo sibilò improvvisamente dai denti aperti di Balptheor. Il suo viso divenne sempre più paonazzo e la paura gli riempì gli occhi. I muscoli sembravano dovergli esplodere dalle braccia e dalle spalle. Eppure i muscoli dello spesso collo del cimmero non cedevano. Sembravano una massa di cavi di ferro intrecciati sotto quelle dita disperate. Invece, la carne di Balptheor stava cedendo sotto la morsa d'acciaio del cimmero che affondava sempre più in profondità nei muscoli del collo, schiacciandoli contro la giugulare e la trachea. L'immobilità statuaria del gruppo cedette il passo a un'improvvisa e frenetica sequenza di azioni, quando il Cosalano prese a torcersi e a sollevarsi, cercando di arretrare. Lasciò andare la presa sul collo di Conan e gli afferrò i polsi cercando di staccare quelle dita inesorabili. Con una spinta improvvisa, Conan lo fece arretrare, fino a quando la parte bassa della schiena dell'uomo scuro non batté contro il tavolo. Poi Conan lo spinse ancora di più all'indietro, sempre di più, fino a quando la spina dorsale del suo avversario non fu sul punto di spezzarsi. La bassa risata di Conan era senza pietà, come il sibilo dell'acciaio. Sciocco! Sapevo che non avevi mai incontrato un uomo dell'Occidente prima d'ora. Ti sei vantato di essere forte perché sei capace di torcere il collo alla gente normale e civilizzata, a quei poveri debolucci dai muscoli come corde marce. Al diavolo! Spezza il collo di un toro selvaggio della Cimmeria prima di definirti forte. Io lo feci prima di diventare adulto. Così! E con una torsione selvaggia piegò la testa di Balptheor, fino a quando il volto spettrale non superò la spalla sinistra e le vertebre si spezzarono come rami marci. Conan gettò il corpo flaccido sul pavimento. Poi si girò nuovamente verso la spada e afferrò l'Elsa con entrambe le mani, puntando i piedi contro il pavimento. Dalle ferite sul collo inflittegli dalle unghie di Balptheor, il sangue gli gocciolava sul petto. I capelli neri erano bagnati, il sudore gli colava sul volto e ansimava. Nonostante le parole di derisione per la forza di Balptheor, Conan aveva trovato quasi un suo pari nell'inumano Cosalano. Però, senza fermarsi per riprendere fiato, esercitò tutta la sua forza in uno sforzo possente che liberò la spada dal magnete dove era rimasta attaccata. L'istante successivo aveva spalancato la porta da cui era risuonato il grido e si trovò a fissare un lungo corridoio diritto punteggiato da porte d'avorio. L'altra estremità era mascherata da un ricco tendone di velluto e da dietro di esso giungevano le note diaboliche di una musica che mai Conan aveva udito, neppure negli incubi, e che gli fece rizzare i capelli sulla nuca. Mescolato a quei suoni si percepiva l'ansimante e isterico piagnucolio di una donna. Stringendo saldamente la spada, il cimmero scivolò lungo il corridoio. Quattro. Quando Zabibi venne trascinata attraverso l'apertura nella parete dietro l'idolo, il suo primo pensiero, confuso e sconnesso, fu che fosse giunta la sua ultima ora. Chiuse istintivamente gli occhi e attese il colpo fatale. Invece si sentì gettare poco cerimoniosamente su un liscio pavimento di marmo che le procurò dei lividi sulle gambe e sui fianchi. Aprendo gli occhi, si guardò timorosamente attorno, proprio mentre un colpo smorzato risuonava dall'altra parte del muro. Vide accanto a sé un gigante dalla pelle marrone che indossava solo un perizoma e dall'altra parte della stanza in cui si trovava un uomo seduto su un divano che dava alla schiena un ricco tendone di velluto, un grasso uomo corpulento dalle mani bianche e gli occhi da rettile. E la pelle di Zabibi rabbrividì, perché quell'uomo era Totrasmek, il sacerdote di Hanuman, che per anni aveva tessuto la sua viscida tela di potere su tutta la città di Zambula. «Il barbaro cerca di sfondare il muro», disse sardonicamente Totrasmek. «Però i chiavistelli terranno!» La ragazza vide che un pesante chiavistello dorato era stato fatto scorrere lungo la porta nascosta, chiaramente visibile da quel lato della parete. Il chiavistello e i suoi alloggiamenti avrebbero resistito alla carica di un elefante. «Vai ad aprire una delle porte per lui, Balptheor! Uccidilo nella stanza quadrata all'altra estremità del corridoio!» Il Cosalano salutò con un inchino e uscì da un'altra porta laterale della stanza. Zabibi si alzò, fissando timorosa il sacerdote, i cui occhi corsero avidamente lungo lo splendido corpo della ragazza. A ciò ella rimase indifferente. Una danzatrice di Zambula era avvezza alla nudità. Però la crudeltà di quegli occhi le fece tremare le gambe. «Eccoti nuovamente nel mio rifugio, bellezza! È un onore inatteso! Mi era sembrato che avessi apprezzato così poco la tua precedente visita, da non osare sperare che la ripetessi. Eppure ho fatto tutto quanto era il mio potere per farti avere un'esperienza interessante!» Per una danzatrice zambulana, arrossire sarebbe stato impossibile, ma un accesso d'ira si mescolò alla paura negli occhi dilatati di Zabibi. «Grasso maiale, lo sai che non sono venuta qui per amor tuo!» «No! Sei venuta come una sciocca, sgattaiolando di notte con uno stupido barbaro per tagliarmi la gola! Perché vuoi attentare alla mia vita?» «Sai benissimo perché!» strillò lei, conoscendo la futilità di quella menzogna. «Stai pensando al tuo amante. Il fatto che tu sia qui a cercare di uccidermi dimostra che ha ingerito la droga che ti diedi. Beh, non me l'avevi forse chiesto? E non ti mandai ciò che avevi chiesto per l'amore che io provo per te?» «Ti chiesi una droga che doveva farlo dormire senza danno per alcune ore. E tu... tu hai mandato il tuo servo con una pozione che l'ha fatto impazzire. Sono stata una stupida a fidarmi di te. Avrei dovuto sapere che le tue dichiarazioni di amicizia erano false e mascheravano il tuo odio e il tuo disprezzo», disse lei amaramente. «Perché volevi che il tuo amante dormisse? Così da potergli rubare l'ultima cosa che non ti avrebbe mai dato, l'anello con il gioiello che gli uomini chiamano la stella di Corala, l'anello sottratto alla regina di Ophir, che pagherebbe una montagna d'oro per la sua restituzione. Ma non te l'avrebbe mai dato di sua spontanea volontà, perché sapeva che in esso risiede una magia che, quando è giustamente controllata, tiene prigionieri i cuori di chiunque appartenga al sesso opposto. Tu volevi rubargliela, temendo che i suoi maghi scoprissero la chiave di quell'incantesimo e lui ti dimenticasse per andare alla conquista delle regine del mondo. L'avresti rivenduta alla regina di Ophir, che ne conosce il potere, e l'avrebbe usato per imprigionare me, come fece prima che venisse rubato.» «E perché tu lo vuoi?» gli domandò lei cupa. «Ah, io conosco i suoi poteri. Avrebbe aumentato quelli della mia arte.» «Beh, adesso ce l'hai.» «La stella di Corala? No, ti sbagli.» «Perché dovrei mentire? Lui l'aveva al dito quando mi fece fuggire per la strada e non l'aveva più quando l'ho ritrovato. Il tuo servo deve aver sorvegliato la casa e deve averglielo preso dopo che sono fuggita. Al diavolo! Voglio che il mio amore ritorni sano di mente e normale. Tu hai l'anello. Ci hai puniti entrambi. Perché non gli restituisci la ragione? Puoi farlo.» «Potrei!» la rassicurò il sacerdote, godendo visibilmente dell'angoscia della giovane. Così dicendo, estrasse una fiala dalle pieghe dell'abito. «Questa contiene il succo del loto dorato. Se il tuo amante lo berrà, ritornerà sano di mente. Sì, io sarò pietoso. Entrambi mi avete contrastato e deriso non una, ma molte volte. Tu ti sei sempre opposta ai miei desideri. Però sarò pietoso. Vieni a prendere la fiala dalla mia mano.» Zabibi si avvicinò a Totrasmek, tremando per il pensiero di impadronirsene, ma temendo anche che non fosse altro che uno scherzo crudele. Avanzò timidamente, la mano protesa, ma il sacerdote rise crudelmente e arretrò lontano. Mentre le labbra della ragazza si aprivano per maledirlo, Una sensazione istintiva le fece sollevare lo sguardo. Dal soffitto dorato caddero 4 vasi color giada. Zabibi si spostò e i vasi non la colpirono. Si ruppero però sul pavimento attorno a lei, formando i 4 angoli di un quadrato. E Zabibi urlò e urlò. Infatti da ciascun vaso frantumato si levò la testa di un cobra e uno tentò di morderle la gamba nuda. Il movimento convulso che Zabibi compì per evitare l'attacco la portò vicino a un altro cobra e nuovamente la ragazza dovette muoversi come una saetta per evitare il guizzo dell'orribile testa. Era finita in una trappola terrificante. Tutti e 4 i serpenti stavano ondeggiando per colpire i piedi, le caviglie, i polpacci, le ginocchia, le cosce, i fianchi, ogni porzione del corpo voluttuoso che capitava loro a tiro. E Zabibi non poteva superarli e salvarsi. Poteva solo ruotare, balzare di lato e contorcere il corpo per evitare i colpi. E ogni volta che si muoveva per scansare un serpente, il movimento la portava vicino ad un altro, così da costringerla a spostarsi con la velocità della luce. Poteva muoversi solo di pochissimo in ogni direzione e quelle terribili teste piatte la minacciavano di continuo. Solo una danzatrice di Zambula avrebbe potuto sopravvivere in quel macabro quadrato. Zabibi divenne uno stupefacente turbinio di movimento. Le teste la mancavano di pochissimo, ma la mancavano perché lei opponeva i suoi piedi guizzanti, le gambe velocissime e un occhio perfetto contro la velocità accecante dei demoni scagliosi che il suo nemico aveva evocato dal nulla. Da qualche parte si levò una musica stridente e lamentosa che si mescolò al sibilo dei serpenti come un malvagio vento notturno che prende a soffiare attraverso le orbite vuote di un cranio. Persino alla velocità dettata dalla disperazione, Zabibi comprese che il guizzare dei serpenti non era più dovuto al caso. Essi obbedivano al macabro suono di quella musica sinistra. Attaccavano con una sintonia orribile e necessariamente lei adeguò l'ondeggiare, il vibrare, il piroettare del suo corpo al loro ritmo. I frenetici movimenti della ballerina si fusero nei passi di una danza al cui confronto il ballo più osceno di Zamora sarebbe sembrato normale e casto. In preda alla vergogna e all'orrore, Zabibi udì l'odiosa risata del suo impietoso tormentatore. La danza dei cobra, mia diletta! Così le fanciulle danzavano in onore di Hanuman secoli fa, ma mai con tanta bellezza e agilità. Danza, ragazza, danza! Per quanto tempo potrai evitare le zanne del popolo velenoso? Minuti? Ore? Ma alla fine però ti sfinirai! Il tuo piede rapido e sicuro inciamperà, le tue gambe cederanno, i tuoi fianchi ruoteranno più lentamente. E allora i denti affonderanno profondamente nella tua pelle d'avorio! Dietro al sacerdote, il tendone si agitò, come se fosse stato colpito da un alito di vento. E Totras Mek urlò. I suoi occhi si dilatarono e le sue mani si strinsero convulsamente attorno alla spanna di lucente acciaio che era sbucata improvvisamente dal suo petto. La musica si interruppe di colpo. La ragazza barcollò stordita, urlando nella terribile attesa delle zanne guizzanti. E poi solo 4 innocui sbuffi di fumo si levarono dal pavimento attorno a lei, mentre Totras Mek cadeva a capofitto sul divano. Conan uscì da dietro il tendone pulendo l'ampia lama. Spiando attraverso i tendaggi, aveva visto la ragazza danzare disperatamente tra 4 spirali di fumo ondeggiante. Ma il cimmero aveva intuito che per la ragazza il loro aspetto doveva essere assai diverso. Sapeva di aver ucciso Totras Mek. Zabibi si accasciò sul pavimento ansimando, ma mentre Conan le si avvicinava, la ragazza si alzò barcollante, sebbene le gambe le tremassero per lo sforzo. «La fiala! La fiala!» Totras Mek la stringeva ancora nella mano irrigidita. Brutalmente Zabibi gliela strappò dalle dita serrate e poi iniziò freneticamente a frugare tra gli abiti del morto. «Cosa diavolo stai cercando?» domandò Conan. «Un anello. L'ha rubato ad Alafdal. Deve averlo fatto mentre il mio amante vagava impazzito per le strade. Per i diavoli di Set.» Si era convinta che l'anello non si trovava sulla persona di Totrasmek. Incominciò allora a guardarsi in giro per la stanza, lacerando le imbottiture dei divani e gli arazzi e anche rovesciando vasi. Si fermò e scostò un ricciolo bagnato che le cadeva sugli occhi. «Mi sono dimenticata di Balpteor.» «È all'inferno con il collo spezzato», la rassicurò Conan. Zabibi manifestò una gioia vendicativa a quella notizia, ma l'istante successivo imprecò coloritamente. «Non possiamo rimanere qui. Non manca molto all'alba. È probabile che i sacerdoti minori visitino il tempio a qualunque ora della notte e se ci scoprono qui con il suo cadavere, la folla ci farà a pezzi. I turaniani non potrebbero salvarci.» Sollevò il chiavistello della porta segreta e alcuni istanti dopo erano entrambi per la strada, allontanandosi frettolosamente dalla piazza silenziosa dove incombeva l'antichissimo tempio di Hanuman. In una via tortuosa a poca distanza, Conan si fermò e bloccò la sua compagna con una rude mano sulla sua spalla nuda. «Non dimenticarti che era stato pattuito un prezzo.» La ragazza si liberò con un guizzo. «Non l'ho scordato. Però prima dobbiamo andare da Alafdal.» Pochi minuti dopo, lo schiavo nero li faceva entrare attraverso la porta con lo spioncino. Il giovane turaniano giaceva sul divano, le braccia e le gambe legate con pesanti corde di velluto. Aveva gli occhi aperti, ma erano quelli di un cane rabbioso e la schiuma sulle sue labbra era abbondante. Zabibi rabbrividì. «Aprigli le mascelle con la forza», ordinò, e le dita ferree di Conan compirono l'opera. Zabibi vuotò il contenuto della fiala nella gola del pazzo. L'effetto fu quasi magico. Istantaneamente l'uomo si acquietò. Lo sguardo non fu più vitreo. Fissò la ragazza con aria perplessa, ma riconoscendola e con lo sguardo intelligente, ricadde in un sonno normale. «Quando si sveglierà sarà completamente rinsavito», mormorò lei rivolgendo un cenno allo schiavo silenzioso. Con un profondo inchino, il nero le diede una piccola borsa di cuoio e le avvolse sulle spalle un mantello di seta. Il modo di fare di Zabibi era subdolamente mutato quando ordinò a Conan di seguirla fuori dalla stanza. Sotto un arco che si apriva sulla strada, si girò verso il cimmero, ergendosi con una nuova regalità. «Adesso devo dirti la verità. Non sono Zabibi, ma Nefertari. E lui non è Alafdal, un povero capitano delle guardie. È Jungir Khan, satrapo di Zambula.» Conan non fece alcun commento. Il suo volto scuro e coperto di cicatrici rimase immobile. «Ti ho mentito perché non osavo dire la verità a nessuno. Eravamo soli quando Jungir Khan impazzì. Non lo sapeva nessuno tranne me. Se si fosse saputo che il satrapo di Zambula era impazzito, ci sarebbe stata immediatamente una rivolta, proprio come Totrasmek aveva ordito, dato che voleva la nostra caduta. Adesso capisci perché la ricompensa in cui speravi è impossibile. La donna del satrapo non può essere per te. Però non te ne andrai senza ricompensa. Qui c'è un sacco d'oro.» La donna diede a Conan il sacchetto che aveva ricevuto dallo schiavo. «Vai adesso, e quando il sole sorgerà, vieni a palazzo. Farò in modo che Jungir Khan ti nomini capitano della sua guardia. Però tu prenderai gli ordini da me segretamente. Il tuo primo compito sarà di marciare con un drappello fino al tempio di Hanuman, ufficialmente cercando indizi relativi agli assassini del sacerdote. In realtà cercherai la stella di Korala. Deve essere nascosta là, da qualche parte. Quando la troverai, portamela. Adesso hai il mio permesso di andare.» Conan annuì, ancora silenzioso, e si allontanò. La ragazza, osservando l'ondeggiare delle ampie spalle del cimmero, si stupì di notare che nulla nel portamento dell'uomo dava a intendere che egli fosse in qualche modo deluso o turbato. Dopo aver girato un angolo, Conan si guardò alle spalle e poi cambiò direzione allungando il passo. Pochi momenti dopo si trovava nel quartiere della città che ospitava il mercato dei cavalli. Là bussò violentemente a una porta, finché da una finestra al piano di sopra si affacciò una testa barbuta che domandò la ragione di tanto fracasso. «Un cavallo, il destriero più veloce che avete!» «Non apro la bottega a quest'ora di notte!» borbottò il commerciante di cavalli. Conan fece tintinnare le monete. «Farabutto figlio d'un cane, non vedi che sono un bianco e solo? Vieni giù prima che sfondi la porta!» Poco dopo, con uno stallone baio, Conan stava cavalcando verso la casa di Aram Baksh. Lasciò la strada e si infilò nel vicoletto che correva tra il complesso della taverna e il giardino dalle palme da datteri, ma non si fermò al cancello. Cavalcò fino all'angolo nord-orientale del muro, poi svoltò e proseguì lungo la parete settentrionale, fermandosi a pochi passi dall'angolo di nord-ovest. Vicino al muro non cresceva alcun albero, ma c'erano alcuni bassi cespugli. Legò il cavallo a uno di quelli ed era sul punto di salire nuovamente in sella, quando udì un mormorio di voci oltre l'angolo delle mura. Levato il piede dalla staffa, si avvicinò furtivamente all'angolo e fece capolino da dietro di esso. Tre uomini stavano percorrendo la strada verso il palmeto e dalla loro andatura furtiva capì che si trattava di neri. Si fermarono quando lui li chiamò a voce bassa e fecero gruppo mentre Conan avanzava con passo sicuro verso di loro, la spada in mano. I loro occhi brillavano bianchi alla luce delle stelle. La loro brama brutale scintillava sui volti d'ebano, ma sapevano che i loro tre randelli non potevano prevalere contro la spada, e anche Conan lo sapeva. «Dove state andando?» chiese con voce sprezzante. «A dire ai nostri fratelli di spegnere il fuoco nel pozzo oltre il boschetto! Aram Baksh ci aveva promesso un uomo, ma ci ha mentito! Abbiamo trovato uno dei nostri fratelli morto nella camera trappola! Questa notte patiremo la fame!» «Ah, non credo! Aram Baksh vi darà un uomo! Vedete quella porta?» indicò un piccolo portale con rinforzi di ferro incassato a metà del muro occidentale. «Aspettate là, Aram Baksh vi darà un uomo!» Arretrando cautamente, fino a quando non fu fuori portata da un colpo improvviso di randello, Conan si girò e sgattaiolò oltre l'angolo di nord-ovest. Raggiunto il suo cavallo, si fermò per accertarsi che i neri non l'avessero seguito furtivamente. Poi montò in sella e vi salì in piedi, calmando il cavallo nervoso con una parola. Allungatosi, afferrò la cornice del muro e si issò in cima. Da lì studiò il terreno per un istante. La taverna sorgeva nell'angolo sud-occidentale del recinto e lo spazio rimanente era occupato da boschetti e giardini. Non vide nessuno in giro. La taverna era buia e silenziosa. E Conan capì che tutte le porte e le finestre erano sbarrate e chiuse. Conan sapeva che Aram Baksh dormiva in una stanza che si apriva su un sentiero bordato di cipressi che conduceva alla porta situata nella parete occidentale. Come un'ombra, Conan scivolò tra gli alberi e pochi momenti dopo bussò leggermente alla porta della stanza. «Cosa c'è?» chiese dall'interno una voce roca e addormentata. «Aram Baksh, i neri stanno scalando le mura!» Quasi istantaneamente la porta si aprì inquadrando il taverniere, che indossava solo una camicia e in mano stringeva un pugnale. Allungò il collo per fissare il cimmero in volto. «Che storia è questa? Tu!» Le vendicative dita di Conan soffocarono il grido nella gola di Aram Baksh. Caddero insieme sul pavimento e Conan strappò il pugnale dalla mano del suo nemico. La lama scintillò alla luce delle stelle e il sangue schizzò. Aram Bash emise dei suoni orribili, gemendo e balbettando con la bocca piena di sangue. Conan lo mise in piedi, il pugnale colpì nuovamente e la maggior parte della barba riccia cadde sul pavimento. Stringendo ancora la gola del prigioniero, perché un uomo è in grado di urlare incoerentemente anche con la lingua mozzata, Conan lo trascinò fuori dalla stanza buia e lungo il sentiero ombreggiato dai cipressi fino alla porta rinforzata in ferro nel muro esterno. Con una mano sollevò il chiavistello e aprì la porta, rivelando le tre figure scure che attendevano come avvoltoi neri all'esterno. Conan gettò il taverniere tra le loro braccia ansiose. Un grido orribile, semisoffocato dal sangue, eruppe dalla gola dello zambulano, ma dalla taverna silenziosa non giunse alcuna risposta. La gente di quel luogo era abituata alle grida provenienti da oltre le mura. Aram Bash lottò come un selvaggio, gli occhi fuori dalle orbite rivolte disperatamente verso il viso del cimmero. Là però non trovò alcuna pietà. Conan stava pensando agli innumerevoli disgraziati che dovevano la loro fine orribile all'avidità di quell'uomo. I tre neri, soddisfatti, trascinarono lo zambulano lungo la strada, prendendo in giro i balbettii terrorizzati dell'uomo. Come avrebbero potuto riconoscere Aram Bash in quella figura seminuda, lorda di sangue, con la barba tagliata grottescamente e dal balbettio inintellegibile? I suoni della lotta giunsero alle orecchie di Conan, ritto accanto al cancello, anche dopo che il gruppo fu svanito tra le palme. Chiudendo la porta dietro di sé, Conan ritornò al cavallo, salì in sella e si diresse verso ovest, verso il deserto aperto, facendo un ampio giro per evitare la sinistra fascia di palmeti. Mentre cavalcava, estrasse dalla cintura un anello, nel quale scintillava una gemma che catturava la luce delle stelle in un'iridescenza luccicante. Lo sollevò per ammirarlo, rigirandolo da una parte e dall'altra. Il sacchetto gonfio di monete d'oro tintinnava gentilmente appeso alla sella come una promessa delle maggiori ricchezze che sarebbero venute. Mi chiedo cosa direbbe se sapesse che l'avevo riconosciuta come Nefertari. Conoscevo anche la stella di Corala. Chissà che scena, se mai, immaginerà che l'ho sfilata dalle dita del Khan mentre lo stavo legando con il cinturone della spada. Però non mi prenderanno mai con il vantaggio che ho. Rivolse un'occhiata ai palmeti in ombra, tra i quali stava crescendo un bagliore rossastro. Una cantilena si levò nella notte, vibrando con selvaggia esultanza. E un altro uomo si mescolò ad esso. Un folle urlo inarticolato, un balbettio terrorizzato, nel quale nessuna parola era distinguibile. Lo schiamazzo seguì Conan mentre cavalcava verso ovest sotto le stelle che incominciavano a impallidire. Fine. La locanda della tormenta è stata lieta di presentare Conan, Ombre a Zambula. Grazie per l'ascolto.